Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. È stato eseguito il primo intervento di precisione sul genoma delle cellule del fegato di un paziente per correggere una malattia genetica. A Obiettivo Salute fa il punto il professor Luigi Naldini, direttore dell'Istituto San Raffaele Telethon per la terapia genica. La novità oggi è che la terapia genica in vivo per delle malattie genetiche è già iniziata usando dei vettori che portano un gene terapeutico, per esempio nel fegato, che è responsabile di molte malattie. Ma finora questi vettori inserivano in modo casuale il gene terapeutico nel genoma delle cellule, con dei rischi anche per questi eventi, oppure erano incapaci di inserirlo e quindi il gene poteva poi andare perduto dopo un po' di tempo. L'intervento nuovo è di usare un sistema innovativo che è basato sull'editing del genoma per inserirlo in modo mirato e preciso, che garantisce quindi l'efficacia e anche la espressione a lungo termine, se funzionerà come previsto dagli studi animali. Se volete saperne di più, sulle pagine del programma ascoltate l'approfondimento del professor Naldini. Con 13.700 casi l'anno e un aumento del quasi il 60% di casi in 15 anni, quello del pancreas è uno dei tumori che, a ragione, fanno più paura. È particolarmente aggressivo, spesso viene diagnosticato in ritardo, quando in uno stadio avanzato, e è spesso inoperabile. Ne parliamo oggi a Obiettivo Salute in occasione della quarta giornata mondiale, che ha proprio l'obiettivo di fare luce su questa neoplasia. Ci aiuta il dottor Giampaolo Balzano, responsabile dell'unità di chirurgia del pancreas al San Raffaele di Milano. C'è un aumento complessivo del numero dei casi di tumore del pancreas, ma non è che noi assistiamo ad una epidemia di questo tumore. Dobbiamo considerare che la probabilità di ammalarsi di tumore del pancreas aumenta con l'età e noi assistiamo ad un progressivo invecchiamento della popolazione generale. I grandi anziani di oggi sono in condizioni di salute migliori rispetto a 10 o 15 anni fa, quindi più frequentemente vengono sottoposti ad esami diagnostici che consentono di individuare malattie come il tumore del pancreas, malattie che prima non venivano riconosciute. In realtà, quando confrontiamo il numero di casi osservati per le singole classi di età, ad esempio 60 anni, vediamo che l'incremento è piuttosto modesto. Ma chi ha appena ricevuto una diagnosi, come deve procedere per non sbagliare? Ascoltate l'approfondimento del nostro esperto sulle pagine del programma. Per oggi è tutto, la programmazione di Radio 24 continua con Melog. Io vi aspetto live su Facebook per parlare di cosa mangiare prima e dopo l'attività sportiva. Se avete dei consigli, condivideteli con noi. Vi aspetto naturalmente e vi auguro una buona giornata. A domani, un saluto da Nicoletta.